24 mattino di Alessandro Milan. Le 7:22 minuti, buongiorno cari ascoltatori, eccoci, siamo in diretta fino alle 9, venerdì, concludiamo la settimana di 24 mattino e oggi faremo un viaggio dalle 8:20 nelle zone più colpite da questa alluvione, Liguria e Toscana. Avremo il governatore della Liguria, Burlando, avremo il procuratore capo di Massa Carrara, è stata aperta una delle due inchieste, l'altra alla Spezia per omicidio e disastro colposo. Parleremo insomma di quello che sta accadendo lì dove ancora si scava con le mani, con le pale, per cercare di trovare anche i dispersi. Questo dalle 8:20, ora da cosa iniziamo? Come al solito dai quotidiani in edicola. In questo venerdì 28 ottobre, alcuni titoli di apertura: l'Europa infiamma i mercati, così il Sole 24 Ore. Questa è una delle aperture scelte dai vari quotidiani come il Corriere della Sera. L'Europa spinge le borse, La Stampa, il piano UE fa volare le borse, Il Messaggero, accordo europeo, volano le borse. Repubblica, licenziamenti facili e rivolta. Il Giornale, la rabbia dei Menagramo dopo il successo di Berlusconi, anche Libero, la sinistra è una comica. Mentre il Fatto Quotidiano si concentra sui soldi, uno studio del conto di Silvio Berlusconi, caspita, 20 milioni per le cene eleganti. Dall'inchiesta di Firenze su Verdini viene fuori un conto bancario di Berlusconi, una pioggia di soldi su plotoni di ragazze. E il Fatto titola: beneficenza o ricatti sessuali? Ma insomma, subito con le segnalazioni dai giornali, altrimenti non ce la si fa con il tempo. E allora, dal Corriere della Sera vi segnalo la storia, pagina 19, che riguarda e che coinvolge Eros Ramazzotti. Ramazzotti alla corte d'Uzbekistan, quando le star cedono ai dittatori. C'è oggi il concerto di Eros Ramazzotti a Tashkent. L'ha voluto la figlia del dittatore Islam Karimov dell'Uzbekistan. Le polemiche sono perché il Corriere si chiede proprio questo, il punto: è giusto fare affari con dittatori? Alcuni si giustificano dicendo che è un modo per far girare l'arte e la cultura anche nei paesi senza libertà. Ma insomma, l'Uzbekistan è considerato da Human Rights Watch uno dei governi tra i più repressivi, assieme alla Corea del Nord e alla Birmania. Secondo Amnesty International, gli arresti arbitrari, le uccisioni sono all'ordine del giorno, spesso avvengono in maniera brutale. E allora la polemica, rilanciata anche dal Guardian, è questa: la questione di andare a Tashkent o no. L'ultimo, lunedì scorso, è stato anche Ennio Morricone, che ha diretto un concerto a Tashkent per la settimana dell'arte. Il manager di Eros Ramazzotti dice: ma ci hanno chiamato, è un concerto a pagamento, non è una convention, è difficile per noi prendere una posizione, non mi sono informato. E poi ha concluso: non so nemmeno dove sia l'Uzbekistan, però andremo là a fare questo concerto. Insomma, la polemica lanciata dal Corriere della Sera. Mentre il Fatto Quotidiano a pagina 7 con Carlo Tecce ci racconta chi sarà molto probabilmente il sostituto di Michele Santoro, chi insomma occuperà quello spazio del giovedì dove c'erano zero. Volete saperlo chi è? Ve lo dico, è Giuliano Ferrara. Ferrara occupa Rai 2, il nuovo anno zero è lui, da gennaio ogni giovedì. E Ferrara in qualche modo conferma: è stata un'ispirazione. Ho visto che c'era qualcosa da fare, allora, cara Lorenza, ho scritto al direttore generale della RAI, Lorenza, lei, a gennaio, scrive il Fatto, avremo il sostituto di anno zero su Rai 2. Il direttore del Foglio ha spedito la lettera senza ritorno, senza ricevute, non conosco l'esito, non posso sapere i progetti di Viale Mazzini, ma il Fatto dice verrà accolta. Ha già anche un titolo, si intitolerà L'esame, perché vorrei che ci sia un confronto di opinioni. Io non sono per la verità estrapolata come il molare del dentista. Io non sono la voce del popolo, vorrei qualcosa di veloce e dinamico. Pochi filmati, due mie interviste, due personaggi diversi, un gruppo di persone che giudica e consente al sondaggista Nando Pagnoncelli di fare le sue statistiche. Insomma, Ferrara, secondo il Fatto Quotidiano, occuperà lo spazio di Santoro. E tra l'altro Ferrara, con molta molta malizia, dice: ascolta con attenzione, dice a Carlo Tecce del Foglio, mi spiace che il tono di voce sul giornale valga zero, ma senti il mio gusto, prima eredito la cattedra di Enzo Biagi, adesso il trono di Michele Santoro. E puntini sospensivi, manca soltanto Daniele Luttazzi e poi ironia berlusconiana, l'editto di Sofia è completo, così scrive il Fatto. Comunque farà discutere, certo, per chi segue i programmi televisivi, Giuliano Ferrara al posto di Michele Santoro. 24 mattino. Allora, 7:33 minuti, andiamo alla lettura dei giornali per quel che riguarda le notizie di apertura. Intanto uno sguardo a quello che succede in Europa, dove fa sapere il Sole 24 Ore l'intesa su Atene, fondo salva stati, fa volare le borse, l'accordo europeo fa volare le borse, così titola a pagina 3 il Sole. C'è da dire che ci sono state 10 ore di trattativa nella notte, non nell'ultima passata, ma nella penultima notte passata. Alla fine la volontà di potenziare il fondo salva stati è servita appunto a dare un volano positivo per le borse, che hanno fatto registrare per esempio Piazza Affari più 5,49% e Wall Street più 2,21%. Tra l'altro c'è questa frase di Sarkozy, che c'è sempre l'Italia un po' in testa, diciamo, ultimamente, no? Sarkozy avrebbe detto, ha detto, se fosse caduta la Grecia, poi sarebbe toccato all'Italia e poi sarebbe stata la fine dell'Europa. Questo a difendere l'importanza dell'accordo per salvare, appunto, Atene. L'altro aspetto europeo che c'è sui giornali, che oggi si riporta dietro ancora varie polemiche in Italia, politiche soprattutto, è la questione della lettera di intenti presentata dal premier Berlusconi a Bruxelles. L'Europa a Roma fa sapere che è stata accolta positivamente questa lettera. Ora è stato nominato il commissario per gli affari economici finlandese Rehn a controllare, da parte di Barroso, a controllare passo dopo passo che nei prossimi 8 mesi l'Italia mantenga tutti gli impegni che si è assunta a Bruxelles. L'Europa a Roma, vigileremo sugli impegni, così a pagina 5 del Corriere della Sera. C'è da dire che intanto il giornale fa in prima pagina questa operazione. Sapete la vittoria di chi questa lettera? La vittoria del ministro Renato Brunetta. Ora c'è il timbro europeo, il ministro Brunetta non è un cretino. Così titola in prima pagina il giornale. Cretino era l'epiteto che gli aveva rivolto in questa frase che era stata quasi intercettata a un convegno da Tremonti, no? Ve lo ricordate? Mentre parlava Brunetta, Tremonti, rivolto a un interlocutore, disse: ma cosa dice un cretino? Questo è un intervento suicida. Ecco, invece la rivincita di Brunetta è stata questa. La notizia, scrive Antonio Signorini, non è tanto che la lettera promossa da Bruxelles è stata scritta in 3 giorni a Palazzo Vidoni, cioè la sede del ministero di Brunetta, della pubblica amministrazione, e non in quello dell'economia, ma che Renato Brunetta non era poi così cretino, visto che ha portato a casa una promozione che vale oro. E quindi il giornale dice: è stata la rivincita questa lettera di intenti di Brunetta. Una lettera di intenti che invece dall'opposizione il segretario del PD Bersani boccia categoricamente, lo fa in un'intervista al Messaggero, intervistato da Barbara Yerkov a pagina 7. Dice Bersani: a uno sguardo obiettivo il documento è fortemente minaccioso sul mercato del lavoro. Quando si parla con tanta leggerezza di licenziamenti per motivi di crisi, si deve sapere che in questo momento abbiamo 400.000 cassintegrati che, leggendo questa novità, potrebbero apprendere che da oggi sono tutti licenziati. Al netto di queste minacce è tutta merce usata, venduta come nuova. E tra l'altro Bersani dice: non voglio certo minare l'apertura di credito dell'Europa, che sembra apprezzare le promesse italiane, ma se tra un mese emerge che abbiamo raccontato un sacco di fandonie e di favole, raddoppiamo i guai, non possiamo vendere altro fumo. Ecco, la questione dei licenziamenti facili, come è stata titolata così sui giornali, è la questione che fa ancora più discutere. Il ministro al welfare Sacconi dice: vogliamo un lavoro più moderno. L'obiettivo è quello di favorire le assunzioni, non al contrario licenziamenti facili. Di questo tema parlerà Oscar Giannino oggi alle 9, ma certo c'è già intanto la rivolta confermata di CGIL e CISL e UIL, dunque sindacati che si sono riuniti, e qualcuno in un retroscena fa notare che Tremonti abbia proprio con molto fare polemico detto: beh, siamo riusciti a far riunire i sindacati su questa polemica dei licenziamenti facili. E poi ci sono le interviste. Sacconi appunto dice: vogliamo favorire le assunzioni. Raffaele Bonanni della CISL, intervistato dalla Stampa, gli risponde: è una provocazione che è mossa soltanto da ragioni ideologiche. Mentre Giampaolo Galli, direttore generale di Confindustria, viene intervistato dal Messaggero a pagina 11, dice: ci sono orientamenti che affrontano i problemi in questa lettera, riguarda i licenziamenti facili. Nessun licenziamento facile, il tema, come ci chiedono l'Europa e la BCE, è quello di rivedere le regole del mercato del lavoro per renderlo più flessibile, garantendo ammortizzatore sociale al lavoratore che perde il posto, aiutandolo a trovare un nuovo impiego. Le due priorità sono inscindibili. E credo sia opportuno che il governo, come ha già annunciato il ministro Sacconi, convochi a breve le parti sociali per una discussione seria. Durissima invece Susanna Camusso, ieri su Repubblica, oggi viene intervistata da L'Unità, e dice ha delle posizioni molto molto dure, soprattutto nei confronti del ministro del welfare Sacconi. Lo definisce così, Oreste Pivetta, la intervista, pagina 2 e 3. È un ministro del lavoro che odia i lavoratori. Non capisco cosa abbiano fatto di male i lavoratori per suscitare tanta ostilità da parte di Sacconi. Un atteggiamento vendicativo, immotivato, che si materializza nell'idea singolare che si possa rimettere in sesto l'economia di un paese mortificando i diritti. Insomma, una Susanna Camusso pronta a battagliare. Sempre così in Italia, si annuncia qualcosa, già lo scontro delle dichiarazioni è aumentato tantissimo, in realtà non si capisce bene quali siano poi i termini veri della questione, ma intanto il dibattito e le polemiche sono già verissime, concrete. L'aspetto politico poi fa registrare che cosa? C'è un giallo vero e proprio su una lettera che sarebbe stata messa a punto da quelli che vengono definiti ormai i frondisti all'interno del Popolo della Libertà, una lettera che queste persone dicono non abbiamo mai scritto, non esiste, è un'invenzione. Sta di fatto che è un giallo che si è diffuso ieri nel pomeriggio, il Sole 24 Ore titola pagina 10, i frondisti PDL al Premier, passo indietro. Appunto, questa lettera, il cui primo firmatario e sospettato firmatario sarebbe il senatore Pisanu, ma ci sono anche altri, si guarda anche a Scajola, e poi a quelli che fanno capo alle loro cene, no? Alle loro cene dove ci si incontra per discutere il futuro, eccetera, avrebbero firmato questa lettera. Silvio, fai un passo indietro, allarghiamo la maggioranza all'UDC e facciamo un governo di transizione. Lettera pro dimissioni, ma nel PDL tutti smentiscono. Ecco qui, anche sul Corriere della Sera. Un altro nome che è molto accreditato come autore di questa fronda è il senatore Ferruccio Saro, che smentisce l'esistenza della lettera, intervistato al Secolo XIX, a pagina 9, la lettera non c'è. Però ribadisce: il tempo è scaduto, non so come sia uscita questa idea della lettera, ma chiedo il passo indietro del Premier. Lui è parte del problema e parte della soluzione, potrebbe partecipare a questa fase indicando chi può gestire la fase di transizione. Se lo fa, la transizione è sostenibile, ma non deve essere dirompente, altrimenti c'è l'esplosione del sistema. È un senatore del Popolo della Libertà, ma insomma sono, pare, 13 senatori anche per Repubblica, i ribelli anonimi per evitare ritorsioni. L'obiettivo ora è colpire in Parlamento. L'obiettivo sarebbe questo. Dunque la lettera non c'è, ma l'obiettivo, secondo Claudio Tito, come retroscena di Politica del Giorno su Repubblica, pagina 3, è questo, cercare di fare cadere e di creare l'incidente in un mese, tappe scadenzate, un travaso di deputati verso il gruppo misto, la ricerca di un incidente parlamentare, la formazione di un esecutivo di larghe intese. Con un programma limitato, l'emergenza economica, i provvedimenti promossi dall'Unione Europea e la legge elettorale. Questo sarebbe lo schema da parte di Berlusconi, tanto che il Libero la mette così. Sarebbe lo schema dei frondisti all'interno del Popolo della Libertà. Libero la mette così, lettera dei traditori azzurri. Silvio, devi andartene. Però questa lettera in realtà non si capisce bene se c'è oppure no. Come? Ma siamo sempre retroscena. Non si capisce bene se Berlusconi abbia detto questa frase del suo portavoce Paolo Bonaiuti. Lo mette Libero a pagina 8, corredato da tre foto che ritraggono Bonaiuti con tre cravatte sgargianti di diverso tipo. Berlusconi avrebbe detto del suo portavoce, con quell'aria da becchino e con quelle cravatte immettibili, fa solo male alla mia immagine, non lo voglio più vicino. Ve la do come viene riportata dai giornali. Il Fatto Quotidiano invece apre andando a spulciare i conti, un conto corrente intestato a Silvio Berlusconi. Lo fa all'interno di un'inchiesta. La paga del sabato sera, così pagina 2-3, Sara Frangini, Ferruccio Sansa e Davide Vecchi, tre firme per questa inchiesta di due pagine. 250.000 euro se ne vanno in un attimo per l'acquisto di 9 mini. Le macchine, di cui una full optional da 37.000 euro per le ragazze dei festini. E poi Silvio bonifica al fratello Paolo 48 milioni di euro. Ai figli di prime nozze Marina e Pier Silvio bonifica mensilmente cifre tra i 100 e i 150.000 euro. I costi delle residenze ogni 30 giorni, quindi ogni mese, invia tra i 30 e i 50.000 euro al custode di Villa La Certosa. E poi trasferimenti da 15.000 a 3 milioni di euro per 26 donne diverse. C'è tutto l'elenco, cioè sono andati a spulciare evidentemente dagli atti giudiziari i versamenti bancari. 325.000 euro a favore della figlioccia di battesimo Isabella Orsini. Evelina Manna invece prende 700.000 euro, 300.000 all'arcorina Albertina Carraro. Ci sono poi Friederike Girt, 115.000 euro, Cristina Ravotto 150.000 euro, Valentina Frascaroli 45.000 euro, e così si continua tutto questo elenco. La paga del sabato sera, un fiume di soldi seguendo un maxi versamento a Dell'Utri, il fondo da 15 milioni del solito Spinelli e i bonifici alle immancabili Papi Girls. Ufficialmente sono regalie, ma il fatto si chiede: che cosa nascondono? Torna insomma la questione dei pagamenti, delle cene eleganti, messo tra virgolette, del Fatto, riguardanti il Premier. Allora, io vi ricordo che dalle 8.20 parleremo di quello che sta succedendo con la situazione di emergenza, sentiremo i racconti dei diretti protagonisti, di quelli che stanno vivendo il dramma dell'alluvione, del fango, l'acqua che si sono riversati sulla Liguria e parte della Toscana, soprattutto in Liguria, le Cinque Terre devastate, ancora le foto oggi sui giornali. Sono impressionanti, ancora si cercano i dispersi che insomma ormai si hanno poche speranze di trovarli. Ci sono anche storie che cominciano a emergere, come quella del sindaco di Vernazza, Vincenzo Resasco, che sarà tra i nostri ospiti. Sindaco di Vernazza che letteralmente ha salvato moltissime persone, quando si è reso conto della situazione subito è andato in ogni negozio, in ogni casa, cercare di dire abbandonate, andatevene via, sta succedendo l'inferno, guardate che tra poco succede il finimondo. Solo due persone non l'hanno ascoltato, sono due persone che sono appunto date per disperse, ma insomma ci sono tante storie e anche tanti momenti di difficoltà che sta vivendo quella terra ora colpita duramente. Ne parleremo appunto alle 8.20. Per la cronaca io vi segnalo che sono stati fatti nuovi arresti legati agli incidenti di Roma. Ricordate la manifestazione con alcuni facinorosi delinquenti che hanno quella di Roma, no? Dove hanno anche incendiato il blindato dei carabinieri. Ebbene, è stato per esempio fermato una delle persone che, vi ricordate forse nella foto, lanciava nel blindato dei carabinieri già in fiamme un liquido infiammabile con una bottiglia. È stata fatta una foto, è un giovane di Pisa, già conosciuto alle forze dell'ordine perché è consumatore di droghe leggere, è stato riconosciuto dalla foto e fermato. È stato fermato, gli hanno detto, che stavi facendo? La risposta è questa, versavo sul blindato dei carabinieri in fiamme della Coca-Cola. Tutto vero, eh? Questa è la dichiarazione che ha detto. Sì, sì, vero, versavo del liquido, ma non era benzina, era Coca-Cola. Nuovo arresto per l'assalto al blindato. Un black bloc fermato a Pisa. A Roma fermati invece 5 minorenni ai domiciliari. Il giornale titola beccato anche l'incendiario del blindato. Versavo una bevanda. Voglio segnalarvi oggi uno spassosissimo Attilio Befera, direttore dell'Agenzia delle Entrate, scrive una lettera al Corriere della Sera perché col nuovo redditometro si è registrata una polemica e soprattutto da parte dei veterinari che dicono ci hanno inserito le spese veterinarie tra gli strumenti del redditometro. Si vuole così attaccare chi protegge, ama, cura i propri animali. Attilio Befera allora prende carta e penna e scrive la lettera al Corriere della Sera dal titolo «I miei due cani e il fisco». «Caro direttore, in Italia quando si fanno interventi per rendere più efficace il recupero dell'evasione, la tentazione di alzare paletti e barricate è molto forte. A volte si usano scudi umani, stavolta scudi animali. Lo scudo umano è dato da teneri bambini e mogli abbandonate cui un fisco crudele intende negare un'amorevole pet therapy. Lo scudo animale è dato dai cagnolini, di cui pare si annuncia ormai una strage, perché i loro poveri padroni non sarebbero più in grado di mantenerli per le grinfie del fisco crudele che intende far loro carico di buona parte del risanamento della finanza pubblica». In realtà, dice, prima che si scateni la ribellione degli animali, farei chiarezza. Redditometro non misura la ricchezza, ma reddito speso, mettendo insieme 100 voci di spesa. Le spese veterinarie sono solo una di queste 100 voci, che aiutano a fotografare la capacità di spesa della famiglia. Le spese veterinarie sostenute, come altre, non vengono assunte individualmente, ma valutate all'interno di un contesto più ampio. I veterinari, fino a prova contraria, non lavorano gratis e quindi, a giusto titolo, entrano nel paniere. E poi, conclude Befera, stasera tornando a casa non avrò bambini cui dare un buffetto sulla guancia, mi aspettano però il mio alano e il mio bassotto. Spero di trovarli festosi come sempre, a meno che qualcuno non abbia adesso ventilato che cosa il loro fin qui amato padrone starebbe ordendo in Italia ai danni dei cani di compagnia. Firmato Attilio Befera, direttore dell'Agenzia delle Entrate. Beh, insomma, complimenti. Senza dubbio per lo humor. E poi voglio andare come cronaca a concludere con quello che è successo a Roma, sapete, no? Roma, parte di Roma in tilt, come abbiamo sentito anche nel giornale radio, per i super sconti. Roma si blocca per i super sconti, titolo del Sole. Ressa per iPhone TV. La febbre del maxi sconto manda in tilt Roma, Repubblica. Alla faccia della crisi, lo shopping paralizza Roma, Libero. E anche il Manifesto in prima pagina mette una foto di questo assalto a Roma. Comunisti? No, consumisti. Assalto per gli sconti. E allora vorrei chiudere con il Michele Serra Lamaca di oggi su Repubblica. È difficile immaginare qualcosa di più rattristante di una folla di quasi 10.000 persone che fa botte per entrare in un megastore e accaparrarsi televisori, ferri da stiro, frullatori in offerta speciale. Accaduto ieri a Roma. C'era gente in coda dall'alba, gente accampata. Non era una coda per il pane, era una coda per sentirsi in regola con l'identità del consumatore medio, degno di vivere in questo mondo senza sentirsi di troppo. Mi basterebbe che qualcuno, anche solo uno su 10.000, all'improvviso si fosse sentito umiliato in quella ressa di schiavi per avere qualche speranza in più sul nostro futuro. Mi basterebbe che qualcuno, anche uno, avesse improvvisamente scartato di lato, respirato forte e forse fuggito ovunque, pur di non rimanere lì a fare la comparsa a pagamento, pagare per apparire, pagare per esistere. Non riesco a credere che un tostapane con lo sconto, pure se in tempi di crisi nera, sia in grado di trasformare le persone in uno sciame di mosche disposte a schiacciarsi l'una con l'altra pur di posare le zampe sulla propria briciola. 24 mattino. Ben ritrovati da Alessandro Milan, sono le 8 e 21 minuti, allora ci concentriamo a partire da adesso fino alle 9, parleremo della Liguria colpita nelle sue terre più belle tra l'altro e della Toscana colpita, tra l'altro notizia di poco fa, l'abbiamo sentito nel giornale radio, è salito a 7 il numero di morti ufficiali perché è stato ritrovato un corpo che è una delle persone disperse a Borghetto Vara. Saluto il governatore della Liguria, Claudio Burlando, governatore buongiorno. Buongiorno. Senta, lei ieri è stato per il secondo giorno consecutivo in quelle terre, cosa l'ha colpita delle immagini che ha visto della Liguria ferita? Guardi, sono situazioni molto difficili davvero, perché l'orografia del territorio è difficilissima, Cinque Terre, Val di Vara. Sono stato ieri e l'altro ieri alle Cinque Terre perché da Genova era impossibile raggiungere Spezia, poi ieri siamo riusciti invece a stare anche su a Borghetto, Bugnato. La Vernazza e Monterosso sono coperte da 3 metri di fango, quindi Vernazza in particolare non c'è più un esercizio pubblico attivo perché Monterosso è diviso in 2 borghi, uno è stato meno colpito. E non c'è acqua, non c'è luce, non c'è gas, non c'è telefono, insomma, quindi può capire la situazione com'è. È tutto diverso, ma ugualmente drammatico il panorama su, perché mentre alle Cinque Terre sono giù i muretti a secco, insomma, su è proprio dal bosco che sono venuti giù tronchi, alberi veri e propri, che hanno investito diverse comunità, Bugnato e Borghetto sono le più colpite, ma poi anche Sastavodano, in particolare la frazione di Mangia, Pignone, insomma, e poi vabbè la Valle del Magra, Sarzana, Meglia, insomma, è una situazione veramente molto difficile. I collegamenti stradali o sono stati riaperti stanotte o in giornata, adesso ieri sera tardissimo, ancora non ero deciso, ma una carreggiata riapre un binario ferroviario che da quelle parti a Cinque Terre è importantissimo perché pochissimi usano l'auto, sono zone quasi inaccessibili con l'auto, e quindi riapre un binario, quindi poi ci sono strade come quella di Vernazza che non ci sono più, quindi sarà questione non di giorni o di settimane, certo, ma addirittura di mesi. Senta, avete già un'idea della stima dei danni che si possono... Ma io preferisco non farne quasi mai, perché di solito sono numeri che si sparano un po' lì a caso, ma certo un danno ingente che non si misura a unità o a decine di milioni, ma 100, 200, l'ordine di grandezza può essere questo. Poi, ripeto, è molto difficile anche perché in certi posti le strade sono completamente scomparse o comunque sono coperte di fango per chilometri, quindi bisogna capire cosa, una volta che si toglie il fango, se la strada è agibile, sì, cosa è rimasto della strada. Insomma, senta, tra l'altro, governatore, a Vernazza c'è questo dilemma sul fatto dell'evacuazione, secondo lei andrebbero evacuate le case? Ma cioè... guardi, noi siamo stati ieri in chiesa con il prefetto Gabrielli, in chiesa perché erano i pochi luoghi in cui si poteva entrare, la chiesa era la parte alta del paese. La gente era, devo dire, compostissima, assolutamente incredibilmente disponibile anche a capire, a dialogare, a chiedere, ad ascoltare, insomma. Ma le persone anziane in un paese senza acqua, senza luce, senza gas, senza telefono, è bene che vadano via, devo dire che lo stanno facendo, alcuni sono venuti via con noi con un mezzo di emergenza, un carrello ferroviario che è arrivato lì da Spezia e sono andate via, vanno da parenti e amici, oppure chi non ha questa possibilità va in questi posti, queste affittacamere del Cinque Terre così caratteristiche di tutto il mondo. I giovani invece rimangono lì, evidentemente, rimangono lì a lavorare, e sono arrivati i mezzi di soccorso con il carrello ferroviario che ha portato via gli abitanti, anche noi, sono stati cadaviti del fuoco, sono stati fatti scendere facendo una scivola di fortuna con la terra che non mancava, col fango che non mancava, e quindi cominciano a scavare, insomma. Ora, è difficile capire quanto ci vorrà, certamente non è questione di giorni, questo è evidente. Di questo di tempo. Senta, perché... lei come ben sa sono state aperte anche 2 inchieste, una tra l'altro alla Spezia, proprio che riguarda l'ipotesi di omicidio e disastro colposo. Ecco, lei si ipotizza quale possono essere anche le responsabilità, perché è inutile negare... Io ho cercato di dire tutti i giorni, tutto il giorno ieri, anche nel giorno precedente, ci sono casi devo dire, abbastanza limitati e con conseguenze molto più, come dire, molto meno gravi, in cui può essere che so io, l'eccessivo sviluppo edilizio abbia avuto un ruolo, ma parlo di vicende molto limitate come quella della Bocca di Magra. Poi ci sono, mi pare che la prevenzione abbia funzionato molto bene, nel senso che l'allerta ha funzionato bene, a Vernazza il sindaco due volte è andato a avvisare tutti gli abitanti e delle case basse e i commercianti, anche se tre persone hanno aderito all'invito di andare nei piani alti. Lì io, come mi dico da anni, girando per la Liguria in modo forsennato, io ho visto 160 paesi in un anno e mezzo, nell'ultimo anno e mezzo, quindi. Il problema è che qui c'è un equilibrio millenario che non tiene più, perché noi avevamo 250.000 liguri che abitavano e lavoravano nell'agricoltura fino al dopoguerra, ora sono 15.000, e i boletti a secco, i boschi e così via sono stati lasciati andare. Ora sono numeri simili a altre regioni italiane come quantità e proporzione. E con la differenza che nelle altre regioni italiane, molte di esse, è possibile usare macchine, trattori, macchine agricole, che in buona parte fanno un lavoro che facevano tanti uomini. E qui la conformazione è tale per cui non si possono usare macchine sostanzialmente. D'altronde fare questi lavori è una cosa faticosissima, il ritorno economico è molto modesto, non ci si campa, per essere diciamo più espliciti. Quindi non è che sia una cosa che si risolve, come dire, dando la colpa a qualcuno, almeno a mio giudizio. È un problema di cultura di un paese, di una regione che deve, e anche di leggi che possano incentivare, aiutare. Noi stiamo facendo molte cose indirette, no? Difendiamo le scuole, anche le pluriclassi, che secondo me c'è un'altra corrente di pensiero, vanno tutte quante chiuse perché sono poco educative. Cioè difendiamo tutte quelle cose tipiche della montagna, ci portiamo la banda larga, facciamo cofinanziare meno o niente le opere pubbliche se i paesi sono piccoli, tutte quelle cose che aiutano un po' chi sta lì, e devo dire che ormai nella fascia intermedia della regione la popolazione è di nuovo in aumento, perché sì, abbiamo avuto come una specie di dove che ha succhiato tutto verso valle, no? Le fabbriche, i porti. E lei però, nei giorni scorsi ha anche puntato il dito per esempio contro il taglio di fondi dal governo centrale. Questo è un'altra partita, nel senso che con l'ultimo decreto di febbraio il governo ha detto d'ora in avanti non c'è più un fondo di protezione civile per aiutare, per prevenire anche, e faremo una cosa diversa, un'assicurazione o un fondo con una cifra di un centesimo sulla benzina. Il problema è che a distanza di 8 mesi ormai da quella data non c'è più il fondo di protezione civile e non c'è ancora uno strumento alternativo per intervenire o prevenire, diciamo. Abbiamo detto a Gabrielli in questi giorni, so che si riunirà il Consiglio dei Ministri questa mattina, almeno questa è la notizia che abbiamo, immagino che sarà accolto la dichiarazione di emergenza, perché più di così diciamo credo che sia difficile avere. Voi chiedete questo, diciamo, lo Stato, almeno che sia dichiarato lo stato di emergenza. L'emergenza in sé è una fotografia di un disastro, ecco, poi chiederemo anche che il Paese ne faccia carico, perché non ci sembrerebbe giusto che questa gente qui venga lasciata sola, o che anche la regione venga lasciata sola, perché è una vicenda così complicata anche in Toscana, tra l'altro. Ma perché sente che sia stato un po' così per ora? Cioè sente una sorta di abbandono? Cioè, ci sono norme attualmente che non mettono a disposizione neanche un fondo per l'emergenza della protezione civile. Forse con lo stato di emergenza però cambierà, insomma, se si dichiara lo stato di emergenza. Questo non è automatico, perché purtroppo le Marche, che hanno avuto eventi drammatici, forse non così violenti, ma comunque drammatici, molti mesi fa, sono ancora lì che aspettano, quindi non è così automatico. Dipenderà dal governo, se il governo coglie questa occasione per capire di aver avuto un atteggiamento non accettabile, perché si può cambiare metodo ma non si può cancellare tutto, ecco, questo mi pare il punto fondamentale, e in questo caso allora spero che sia possibile intervenire. Adesso comunque noi la prima cosa siamo lì, insomma. Sì, certo, c'è anche l'emergenza proprio fisica. Senta, un'ultima domanda è questa. Governatore, hanno tirato fuori oggi sui giornali, oggi lo fa Libero, una polemica che riguarda la regione, cioè una delibera di luglio, e vorrei che lei commentasse su questo, una delibera di luglio della regione Liguria che abbasserebbe, questa è la denuncia del WWF in Liguria, da 10 a 5 fino a 3 metri il limite di inedificabilità vicino ai corsi d'acqua. È vero, cioè una cosa su cui ha risposto anche il suo ambiente ieri. Adesso bisogna che ci capiamo, la Liguria, non so se è chiaro, ha migliaia di corsi d'acqua, nel senso che avendo un bacino piccolissimo non si forma la situazione tipica di altre realtà in cui, come dire, c'è un grande fiume che raccoglie qualche affluente. Qui diciamo che ogni valle ha un rigagno, non so. Allora, siccome accanto a questi rigagni ci sono cose di ogni genere, anche servizi pubblici e così via, questo non vuol dire che è automaticamente possibile, no? Vuol dire che, giudicata la caratteristica di quella, ci sono alcune realtà in cui per esempio non c'è acqua mai, ecco. Giudicata le singole realtà, diciamo, si valuta cosa è possibile fare. Cioè, quindi non è un'accusa di dire cementificazione facile. Ma guardi, come ho cercato di spiegare in questi giorni, il problema vero del disastro di questi giorni, cioè, questo disastro è avvenuto in zone in cui se ne vanno tutti, insomma, questo è il punto. Cioè, specialmente in Val di Var, oppure è avvenuto in zone come nelle Cinque Terre, in cui basta guardare al mare, come ho fatto io ieri. Ci sono le case del Medioevo e punto e fine, insomma, anche perché è difficile costruire su quei posti lì, insomma. Ora, laddove ci sono stati anni 60 e 70 fenomeni di questo genere, è giusto denunciare fenomeni di questo genere, è giusto anche, come dire, fermare fenomeni di questo genere. Ma dice, non è questo il caso, dice. Ma questo caso, onestamente, è un caso, come dire, di mutazione proprio di come noi viviamo, insomma. Intanto, ma è chiaro, è stato preciso su questo. Io la ringrazio, governatore, la lascio ovviamente un'altra giornata, immagino intensa, ma noi proseguiamo su questo tema. Grazie per essere stato con noi, Claudio Burlando, il presidente della Regione Liguria. Tra l'altro, se volete 800 24 00 24, dare le vostre testimonianze, se siete della zona o quello che avete da dire. Noi rimaniamo in zona in Liguria, racconteremo tra poco le storie di qualche sindaco, amministratore, quelli che riusciremo a raggiungere, i contatti cellulari sono ancora saltati, ponti radio, comunque state con noi e vi racconteremo storie tra poco. Allora, alle 8:38 minuti, eccoci qui a continuare a parlare della situazione in Liguria e in Toscana dopo aver avuto il governatore ligure Burlando. Voglio salutare il procuratore capo di Massa, Aldo Giubilaro. Procuratore, buongiorno. Buongiorno anche a lei, buon lavoro. Allora, Massa insieme alla Spezia, peraltro, sono due fascicoli aperte per la situazione, ovviamente, Massa di Aulla, immagino per competenza territoriale, e la zona toscana. Omicidio colposo è l'ipotesi di reato, credo per al momento senza indagati, è così, procuratore? Sì, sì, esatto, omicidio colposo al momento, ha fatto bene a dire per l'appunto al momento, e ovviamente ancora senza indagati, perché bisogna un po' individuare cosa è successo, quindi chi sono gli eventuale responsabile. E direi per il momento, perché quel che mi piace dire in questo momento è un po' questo, cioè credo che sia importante in relazione a vicende di questo genere non tanto occuparsi solo, diciamo, delle cause ultime più immediate. È chiaro che una componente principale c'era, cioè in questo caso, il maltempo, questo è fuori di discussione, però è cosa abbastanza nota a tutti che scopra o dica delle cose strabilianti, che in fondo la responsabilità spesso e volentieri ricade su noi che abbiamo fatto un uso, un cattivo uso del territorio. Allora vorrei dire questo, cioè non credo sia sufficiente fermarsi alle cause ultime, il maltempo o questo o quell'altro fatto specifico, diciamo, dell'immediato recente. Forse è bene andare a vedere nel tempo se si è fatto quel che avrebbe dovuto essere fatto, per esempio impedendo delle costruzioni, certo, o dei lavori o dell'attività, diciamo, dove però non era il caso di procuratore, che ipotesi di reato, che al momento omicidio colposo, ma potrebbe tramutarsi anche in che cosa? Ci faccia un'ipotesi di in disastro colposo, non lo so, qualche altra cosa. Ora, chiaramente, prima di andare avanti, cioè noi ora come ora abbiamo fatto l'iscrizione in base al minimo, per così dire, che sussiste, che esiste, che risulta, e cioè il fatto che siano morti due soggetti, quindi omicidio colposo. Bisogna a questo punto avere un quadro più completo della situazione. Io sono andato a fare un sopralluogo lì in zona, il quadro più completo della situazione, vedere un po' perché, per quale motivo è successo quel che è successo, e a quel punto all'occorrenza eventualmente modificare il capo di imputazione. In una situazione del genere, procuratore, mi dica come è possibile identificare le responsabilità, perché sa, quando si dice, che ne so, incuria del territorio rientra... insomma, c'è quelli che hanno obbligo di tutelare il territorio, cioè chi dà le licenze, chi dà i permessi, chi non interviene nel caso in cui ci siano per esempio delle costruzioni abusive, dei lavori abusivi. Gli amministratori, quindi, gli amministratori. Chi ha ai vari livelli, chi ha eventualmente responsabilità di gestione del territorio, sono tutti quelli che sovrintendono, ciascuno per le proprie competenze, a fare in modo che il territorio sia utilizzato in maniera corretta, e laddove si utilizzato in maniera scorretta, intervenire per rimuovere quelle situazioni di illegalità, insomma. Questo si tratterà poi di individuarle uno per uno, torno a dire, nel caso in cui ovviamente si ravvisano i propri siti di questo genere. Appunto, le prossime mosse quali saranno? Cioè, per individuarli come intenderete acquisire dei dati o delle... Sì, no, nell'immediato c'è un po' da ricostruire quel che è successo, questo è abbastanza ovvio, cioè capire perché, quindi probabilmente dare una consulenza perché ci venga detto quali sono le cause che hanno dato luogo, non le cause ultime immediate, ma anche le cause un tantino più remote nel tempo, ma remote intendo qualche anno, ecco, tra i 4-5 anni, che hanno determinato quella certa situazione in conseguenza della quale oggi è successo quel che è successo. Poi, una volta avuto il film, per così dire, di tutta la vicenda, vedere che tipo di reati ci sono e quindi quali sono le singole responsabilità in base, torno a dire, a ciò che avrebbe dovuto essere fatto, che invece non è stato fatto. Che non è stato fatto. Io intanto, procuratore, la ringrazio, staremo a vedere ovviamente come evolverà questa vicenda, anche che ha un profilo giudiziario. Dunque, il procuratore di Massa, capo di Massa, Aldo Giubilaro, grazie per essere stato con noi, e dalla Toscana in qualche modo ci vogliamo riportare in Liguria, tra l'altro in una delle zone, come ci ha raccontato prima il governatore Burlando, più colpite, la Val di Vara, Borghetto Vara. Ne voglio salutare un assessore comunale, Massimo Ivani, è con noi, buongiorno assessore. Sì, Ivani. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Tra l'altro, come se non fosse già una notizia di tragedia, questa mattina abbiamo appreso che è stato ritrovato un corpo a Borghetto Vara, proprio uno dei dispersi. Sì, esattamente, in una frazione è stato rinvenuto corpo di una persona che era scomparsa qualche giorno fa e è stato ritrovato. Senta, prima il governatore Burlando ci ha detto, soprattutto in Val di Vara, questa tragedia avviene in zone dove la gente man mano negli anni è andata via. Sì, abbandonando ovviamente quindi terreni e boschi che poi ora si sono in qualche modo riversati sul centro. È un dato di fatto, perché la cultura qua era contadina nel passato, poi c'è stato un graduale spostamento verso le città e le zone che erano coltivate e manutenute, poi alla fine sono state abbandonate. Questo ha creato ovviamente delle situazioni di pericolo che sono state acuite con l'enorme quantità di pioggia che si è riversata sulla nostra zona in poche ore. Senta, ci racconta com'era Borghetto prima di 3 giorni fa e com'è ora? Ma è difficile, perché ora non esiste più nulla, gli esercizi commerciali sono stati spazzati via, i bar, i negozi. Borghetto è una zona, ha una superficie di 27 km quadrati con 5 importanti frazioni che hanno tutte subito degli enormi danni, con case che sono attualmente distrutte, con strade totalmente inagibili, e quindi è una situazione veramente disastrosa. Prima era un piccolo paese in Val di Vara, nell'entroterra ligure, con una vocazione, diciamo, al commercio durante l'inverno e un piccolo turismo durante l'estate, che attualmente sarà totalmente annullato. Totalmente annullato. Voi avete già... Quanto è il pedaggio, so che è brutto, in termini di vite umane, che ha pagato Borghetto, la città che ha pagato di più? Attualmente i morti accertati sono 5, ma ci sono come minimo una decina di dispersi. Una decina addirittura? Sì. Come minimo, sì, perché non è ancora chiaro neppure quanti siano, perché molte persone hanno visto altre persone dentro le vetture portate via dalla piena, dalla bomba d'acqua che si è verificata, e quindi è ancora difficile stabilire il numero dei dispersi. Ma ci spieghi un attimo, voglio dire, quando vi siete resi conto che stava per succedere qualcosa? Non c'era davvero, come ha fatto qualcuno, salire sui tetti o portarsi in zone? Molte persone si sono salvate in questo modo. Ma dice, ma chi era in macchina, per esempio? Chi era in auto? Perché in realtà è successo tutto in pochi minuti. Diciamo, Borghetto è situato alla confluenza di due piccoli torrenti e il fiume Vara, che è il fiume principale. E è successo che uno dei torrenti ha straripato e è entrato dentro il paese, quindi la via principale del paese è diventata sommersa, fiume. Certo. Sommersa. C'erano 2 metri d'acqua all'interno del paese, quindi chi si è trovato in quel momento in quella posizione non è riuscito a raggiungere una postazione più in alto, ha subito o la morte come quelle povere persone, oppure se l'è vista veramente brutta. Allora, le 8:49 minuti, assessore Ivani e Borghetto Vara, le faccio ancora questa domanda prima di liberarla. La questione delle polemiche che ci sono state sul fatto della cura o dell'incuria dei corsi d'acqua, appunto, in caso di Borghetto Vara, ci ha detto sta tra due torrenti. Sì, da questo punto di vista c'è qualcosa da rimproverarsi? Guardi, francamente le leggi che regolamentano la pulizia degli alvei dei fiumi sono molto restrittive, ad esempio è impossibile togliere materiale. Io so di un caso di un collega di un comune vicino che per ragioni legate sempre alle enormi precipitazioni avvenute negli anni scorsi ha rimosso del materiale all'interno di un fiume per mettere in sicurezza un gruppo di abitazioni. Bene, la prefettura e l'ente provinciale gli hanno imposto di riportare il materiale. È incredibile questo, purtroppo sono queste norme così. Ma è vero che arriva oggi il ministro Matteoli da voi? Francamente non lo so, non è confermato, l'ho sentito anch'io, è una giornata ovviamente anche questa in cui si scaverà. Intanto la ringrazio per essere stato con noi, Massimo Ivani, assessore Borghetto Vara. Vorrei sentire qualche ascoltatore. Andrea da Aulla, Andrea, torniamo in Toscana. Andrea, buongiorno. Buongiorno anche a voi. Dica. Niente, quello che ha detto in questo momento l'assessore ci lascia stupiti e ci fa capire quanto anche gli amministratori siano impossibilitati a fare anche le cose fatte per bene. Dico solo una cosa, poi lascio la parola ad altri. Proprio nel tratto di fiume ad Aulla, ormai penso che anche l'immagine l'abbiano vista tutti, io penso che l'alveo sia largo dai 500 ai 700 metri, no? Tant'è vero che l'uscita del casello è proprio utilizzabile attraverso un ponte che passa, molto grande, che passa sul fiume. Il paradosso è che di questa grande distanza che il fiume ha a disposizione, la zona dove scorre il letto sarà di 80-100 metri, quindi fa un'ansa. Ed è proprio in quest'ansa che è uscito, è la presenza della sabbia lo ha costretto ad alzare di livello e quindi a esondare. Ma lei ha visto, era da Aulla, è stato così impressionante? Io ero ad Aulla, siamo andati, praticamente c'era un ristorante sopra la nostra attività, siamo andati al di sopra perché sostanzialmente il fiume è entrato completamente nella città. E quindi è stato necessario ripararsi ai pianiati, abbiamo tolto fango tutte queste notti, abbiamo 2,5 metri di fango nell'attività commerciale, insomma sono cose pesanti. No, ma immagino. Intanto Andrea la ringrazio, vorrei andare a Varazze perché sono tanti quelli che ci chiamano all'800 24 00 24. A Varazze da Giovanni, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Io ho pensato di portare la mia testimonianza di una pesantissima alluvione che c'è stata l'anno scorso a Varazze. Sì. Noi siamo nella frazione di Casanova, è stata una situazione analoga penso a questa delle Cinque Terre. Io sono anche architetto e vorrei solo puntualizzare questo aspetto, che i corsi d'acqua sono progettati per la portata idraulica, ma purtroppo ho notato che in Liguria molto spesso non si valuta l'aspetto della terra liquida che si incanala nei corsi d'acqua. Ed è quello il vero problema. Ma ho capito, ma il problema che si può risolvere è affrontato, perché poi questa è la questione. L'assessore di Borghetto ci ha detto che è una questione di professionalità. No, è questione di professionalità. Andiamo in Alto Adige. e vada a vedere come sono mantenuti i corsi d'acqua in Alto Adige. Qui è questione di professionalità e di struttura politica. Fino a quando le nostre le tasse non rimangono sul territorio per tutelare il territorio, no, l'Italia non esce da questo buco. Fino a quando pensiamo di spendere miliardi di euro in opere pubbliche che servono a pochissime persone e non servono al territorio, noi non possiamo pensare di poi andare a fare delle indagini su come mai muore la gente. Va bene, grazie Giovanni. Vorrei concludere andando in provincia di La Spezia da Alessandro. Buongiorno. Sì, buongiorno. Ascolti, io faccio un breve intervento perché sento veramente delle cose che sono sconvolgenti per la gente che vive qua. Mi scuso, sono innervosito perché veramente mi tocca sentire un assessore che dice che le leggi non gli permettono. Quest'estate hanno speso 800.000 euro sul fiume Magra. Perché? Per ripopolare il fiume e per far in modo che i pesci possano depositare le uova. Hanno fatto un lavoro allucinante, spendendo 800.000 euro per un'utilità di 30, esternamente. Questa cosa qua non le dice nessuno. Invece di spendere 800.000 euro per la ripopolazione dei pesci, magari si poteva utilizzare. Ma scherziamo, poi nessuno fa niente per il sud. Il sud è sempre continuamente devastato, è tenuto qua, gli amministratori non fanno niente, si occupano solo dei loro malaffari, ma nessuno lo dice, abbiamo tutti, e questo assessore... Lei lo sta dicendo, però sa fare... Ma lei Alessandro vede che lo sta dicendo, però dire tutti si occupano del loro malaffare, è una frase che uno poi dice, boh, come faccio io a contestare? Purtroppo è considerato un luogo comune, però le cose si sanno, le cose qua si sanno, si sa perché per Aulla è tutto il giorno, avrà piovuto ma un'oretta e un quarto, non di più, lì c'è stato un problema di dosaggio della diga, lì hanno andato via la diga, hanno fatto quel disastro lì perché hanno sbagliato i tempi. Ma infatti sulla diga credo che stia indagando la procura, proprio vorrà vedere se c'è una diga, io adesso non sono così esperto del territorio, vorrà indagare se sia state emesse delle quantità d'acqua errate sulla diga. Prima il procuratore di Massa ha detto indagheremo, immagino anche su questo. Comunque Alessandro, la ringrazio con questo suo accorato sfogo. Chiudo la trasmissione la settimana con Alessandro Longoni in redazione, Elisabetta Fusconi in redazione, Viola Bottoni in redazione, il nostro Peter Bescapè, l'alpino penna nera, va via, fa il ponte, non si sa. Noi no al ponte, noi siamo qua a lavorare. Lunedì siamo in diretta, martedì siamo in diretta. Se andate via, se volete seguirci, eccoci qua. Intanto do la linea a Oscar Giannino e noi ci troviamo lunedì alle 7:20.